Capitolo 19 de Il Principe di Niccolò Machiavelli. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Renzo Clerico. Il Principe di Niccolò Machiavelli. Capitolo 19. Che si debbe fuggire l'essere disprezzato e odiato. Ma perché circa le qualità di che di sopra si fa menzione io ho parlato delle più importanti, l'altre voglio discorrere brevemente sotto queste generalità, che il principe pensi, come di sopra in parte è detto, di fuggire quelle cose che lo faccino odioso o vile. E qualunque volta fuggirà questo, avrà adempiuto le parti sue, e non troverà nell'altra infamie pericolo alcuno. Odioso lo fa soprattutto, come io dissi, lo essere rapace ed usurpatore della roba e delle donne dei sudditi, di che si deve astenere. Qualunque volta alla università degli uomini non si toglie né roba né onore, vivono contenti, e solo sa combattere con l'ambizione di pochi, la quale in molti modi e con facilità si raffrena. Abietto lo fa l'essere tenuto vario, leggero, effeminato, pusillanimo, irresoluto, di che un principe si deve guardare come da uno scoglio e ingegnarsi che nelle azioni sue si riconosca grandezza, animosità, gravità, fortezza. E circa i maneggi privati dei sudditi, volere che la sua sentenza sia irrevocabile e si mantenga in tale opinione che alcuno non pensi né ad ingannarlo né ad aggirarlo. Quel principe che dà di sé questa opinione è riputato assai, e contro a chi è riputato assai con difficoltà si congiura, e con difficoltà è assaltato, purché si intenda che sia eccellente e riverito da suoi. Perché un principe deve avere due paure, una dentro per conto dei sudditi, l'altra di fuori per conto dei potenti esterni. Da questo si difende con le buone armi e buoni amici, e sempre, se avrà buone armi, avrà buoni amici. E sempre staranno ferme le cose di dentro, quando stiano ferme quelle di fuori, se già le non fossero perturbate da una congiura. E quando pure quelle di fuori muovessero, se egli è ordinato e vissuto come io ho detto, sempre, quando non si abbandoni, sosterrà ogni impeto, come dissi che fece Nabide Spartano. Ma circa i sudditi, quando le cose di fuori non muovino, sa da temere che non congiurino segretamente, del che il principe si assicura assai, fuggendo l'essere odiato e disprezzato, e tenendosi il popolo satisfatto di lui, il che è necessario conseguire come di sopra si disse a lungo. Ed uno dei più potenti rimedi che abbia un principe contro le congiure è non essere odiato o disprezzato dall'universale, perché sempre chi congiura crede con la morte del principe satisfare al popolo, ma quando ei crede offenderlo non piglia animo a prendere simil partito, perché le difficoltà che sono dalla parte dei congiuranti sono infinite. Per esperienza si vede molte essere state le congiure e poche aver avuto buon fine, perché chi congiura non può essere solo, né può prendere compagnia se non di quelli che crede essere malcontenti. E subito che a un malcontento tu hai scoperto l'animo tuo, gli dai materia a contentarsi, perché manifestandolo lui ne può sperare ogni comodità. Talmente che, veggendo il guadagno fermo da questa parte e dall'altra veggendolo dubbio e pieno di pericolo, convien bene o che sia raro amico o che sia al tutto ostinato nemico del principe ad osservarti la fede. E per ridurre la cosa in brevi termini, dico che dalla parte del congiurante non è, se non paura, gelosia, sospetto di pena, che lo sbigottisce, ma dalla parte del principe è la maestà del principato, le legge, le difese delli amici e dello stato che lo defendano. Talmente che, aggiunta tutte queste cose la benivolenzia populare, è impossibile che alcuno sia sí temerario che congiuri. Perché per l'ordinario, dove uno congiurante ha da temere innanzi all'esecuzione del male, in questo caso debbe temere ancora da poi, avendo per nemico il popolo, seguito l'eccesso, né potendo per questo sperare rifugio alcuno. Di questa materia se ne potria dare infiniti esempi, ma voglio solo essere contento d'uno, seguito alla memoria dei padri nostri. Messer Annibale Bentivogli, avolo del presente Messer Annibale, che era principe in Bologna, essendo da Canneschi, che gli congiurarono contro, ammazzato, né rimanendo di lui altri che Messer Giovanni, quale era in fasce, subito dopo tale omicidio si levò il popolo ed ammazzò tutti i Canneschi. Il che nacque dalla benivolenza popolare che la casa de Bentivogli aveva in quei tempi in Bologna, la qual fu tanta che non vi restando alcuno che potesse, morto Annibale, reggere lo Stato, ed avendo indizio come in Firenze era nato de Bentivogli che si teneva fino allora figliolo di un fabbro, vennero i bolognesi per quello in Firenze e li dettono il governo di quella città, la quale fu governata da lui, fino a tanto che Messer Giovanni pervenne in età conveniente al governo. Concludo adunque che un principe deve tenere delle congiure poco conto, quando il popolo gli sia benevolo, ma quando gli sia nemico ed abile in odio, deve temere di ogni cosa e di ognuno. E gli stati ben ordinati e li principi savi hanno con ogni diligenza pensato di non far cadere in disperazioni grandi e di satisfare al popolo e tenerlo contento, perché questa è una delle più importanti materie che abbia un principe. Tra i regni ben ordinati e governati ai nostri tempi è quello di Francia, ed in esso si trovano infinite costituzioni buone, donde ne dipende la libertà e sicurezza del re, delle quali la prima è il Parlamento e la sua autorità, perché quello che ordinò quel regno, conoscendo l'ambizione dei potenti e la insolenza loro, e giudicando essere necessario loro un freno in bocca che gli correggesse, e dall'altra parte, conoscendo l'odio dell'universale contro i grandi, fondati sulla paura, e volendo assicurarli, non volse che questa fosse particolar cura del re, per torli quel carico che potesse avere con i grandi, favorendo i popolari, e con i popolari favorendo i grandi. E però costituì un giudice terzo, che fosse quello che senza carico del re battesse i grandi e favorisse i minori. Né poté essere questo ordine migliore, né più prudente, né maggior cagione di sicurezza del re e del regno. Di che si può trarre un altro notabile, che i principi debbano le cose di carico fare somministrare ad altri, e quelle di grazie a loro medesimi. Di nuovo concludo che un principe debbe stimare i grandi, ma non si far odiare dal popolo. Parrebbe forse a molti che, considerata la vita e morte di molti imperatori romani, fussero esempi contrari a questa mia opinione, trovando alcuno essere vissuto sempre egregiamente e mostro gran virtù d'animo, non di meno aver perso l'imperio, ovvero essere stato morto dai suoi che gli hanno congiurato contro. Volendo dunque rispondere a queste obiezioni, discorrerò le qualità di alcuni imperatori, mostrando la cagione della loro rovina non disforme da quello che da me si è addutto. E parte metterò in considerazione quelle cose che sono notabili a chi legge le azioni di quelli tempi. E voglio mi basti pigliare tutti quegli imperatori che succederono nell'imperio da Marco Filosofo a Massimino, li quali furono Marco, Commodo suo figliolo, Pertinace, Inliano, Severo, Antonino, Caracalla suo figliolo, Macrino, Eliogabalo, Alessandro e Massimino. Ed è prima da notare che dove negli altri principi si ha solo a contendere con l'ambizione dei grandi e l'insolenza dei popoli, gli imperatori romani avevano una terza difficoltà, d'avere a sopportare la crudeltà ed avarizia dei soldati. La qualcosa era sì difficile che la fu cagione della rovina di molti, essendo difficile soddisfare a soldati e popoli. perché e populi amano la quiete, e per questo amano e principi modesti, e li soldati amano el principe danimo militare, e che sia insolente e crudele e rapace. Le quali cose volevano che elli esercitassi ne populi per potere avere duplicato stipendio e sfogare la loro avarizia e crudeltà. Donde ne nacque che quelli imperatori che per natura o per arte non avevano reputazione tale che con quella tenessero l'uno e l'altro in freno, sempre rovinavano. E li più di loro, massime quelli che come uomini nuovi venivano al principato, conosciuta la difficoltà di questi due diversi umori, si volgevano a satisfare a soldati, stimando poco l'ingiuriare il popolo. Il qual partito era necessario, perché non potendo i principi mancare di non essere odiati da qualcuno, si debbono prima sforzare di non essere odiati dall'università. E quando non possono conseguire questo, si debbono ingegnare con ogni industria fuggire l'odio di quelle università che sono più potenti. E però quelli imperatori che per novità avevano bisogno di favori straordinari, aderivano ai soldati più volentieri che agli popoli, il che tornava loro non di meno più utile o no, secondo che quel principe si sapeva mantenere reputato con loro. Da queste cagioni sopradette, nacque che Marco, Pertinace ed Alessandro, essendo tutti di modesta vita, amatori della giustizia, inimici della crudeltà, umani e benigni, ebbero tutti, da Marco in fuora, tristo fine. Marco solo visse e morì onoratissimo, perché lui succedé all'imperio per eredità, e non aveva a riconoscere quello né dai soldati né dai popoli. Di poi, essendo accompagnato da molte virtù che lo facevano venerando, tenne sempre, mentre visse, l'uno l'ordine e l'altro dentro ai suoi termini, e non fu mai né odiato né disprezzato. Ma Pertinace fu creato imperatore contro la voglia dei soldati, li quali, essendo usi a vivere licenziosamente sotto comodo, non poterono sopportare quella vita onesta alla quale Pertinace li voleva ridurre. Onde, avendosi creato odio, e a questo odio aggiunto dispregio per l'essere vecchio, rovinò nei primi principi della sua amministrazione. Onde si deve notare che l'odio si acquista così mediante le buone opere come le triste. E però, come io dissi di sopra, volendo un principe mantenere lo Stato, è spesso forzata a non essere buono, perché quando quella università o popolo o soldati o grandi che siano, della quale tu giudichi per mantenerti aver bisogno è corrotta, ti conviene seguire l'umor suo e soddisfarle. E allora le buone opere ti sono inimiche. Ma veniamo ad Alessandro, il quale fu di tanta bontà che tra le altre doti che gli sono attribuite e che in 14 anni che tenne l'imperio non fu mai morto da lui nessun ingiudicato. Non di manco, essendo tenuto effeminato e uomo che si lasciasse governare dalla madre, e per questo venuto in spregio, conspirò contro di lui l'esercito ed ammazzollo. Discorrendo ora per opposito le qualità di Commodo, di Severo, di Antonino, di Caracalla e di Massimino, li troverete crudelissimi e rapacissimi, li quali per satisfare ai soldati non perdonarono nessuna qualità di ingiuria che nei popoli si potesse commettere. E tutti, eccetto Severo, ebbero tristo fine, perché in Severo fu tanta virtù che mantenendosi i soldati amici, ancorché i popoli fussero da lui gravati, poté sempre regnare felicemente, perché quelle sue virtù lo facevano nel cospetto dei soldati e dei popoli sì mirabile, che questi rimanevano in un certo modo attoniti e stupidi, e quelli altri riverenti e satisfatti. E perché le azioni di costui furono grandi in un principe nuovo, io voglio mostrare brevemente quanto egli seppe ben usare la persona della volpe e del lione, le quali nature dico, come di sopra, essere necessarie imitare ad un principe. Conosciuta Severo la ignavia di Giuliano imperatore, persuase al suo esercito, del quale era in Schiavonia capitano, che egli era bene andare a Roma a vendicare la morte di Pertinace, il quale era stato morto dalla guardia imperiale, e sotto questo colore, senza mostrare di aspirare all'imperio, mosse l'esercito contro a Roma, e fu prima in Italia che si sapesse la sua partita. arrivato a Roma fu dal senato per timore eletto imperatore e morto Iuliano. Restavano a Severo dopo questo principio due difficoltà a volersi insignorire di tutto lo stato. L'una in Asia, dove Nigro, capo degli eserciti asiatici, si era fatto chiamare imperatore. L'altro in ponente di Albino, il quale ancora lui aspirava all'imperio. E perché giudicava pericoloso scoprirsi nemico a tutti i due, deliberò di assaltar Nigro e ingannare Albino, al quale scrisse, come essendo dal senato eletto imperatore, voleva partecipare quella dignità con lui, e mandogli il titolo di Cesare, e per deliberazione del senato se lo aggiunse a collega, le quali cose furono accettate dall'Albino per vere. Ma poiché Severo ebbe vinto e morto Nigro, e pacate le cose orientali, ritornatosi a Roma si querelò in senato di Albino, che come poco conoscente dei benefici ricevuti da lui, aveva a tradimento cerco di ammazzarlo, e per questo era necessitato andare a punire la sua ingratitudine. Di poi andò a trovarlo in Francia, e gli tolse lo stato e la vita. Chi esaminerà dunque tritamente le azioni di costui, lo troverà un ferocissimo lione e un'astutissima volpe, e vedrà quello temuto e riverito da ciascuno, e dagli eserciti non odiato, e non si maraviglierà se lui, uomo nuovo, avrà possuto tenere tanto imperio, perché la sua grandissima reputazione lo difese sempre da quell'odio che i popoli per le sue rapine avevano potuto concepire. Ma Antonino suo figliolo fu ancor lui uomo eccellentissimo, ed aveva in sé parti eccellentissime, che lo facevano ammirabile nel cospetto dei popoli, e grato ai soldati, perché era uomo militare, sopportantissimo di ogni fatica, disprezzatore di ogni cibo delicato, di ogni altra mollizia, la qual cosa lo faceva amare da tutti gli eserciti. Non di meno la sua feroce crudeltà fu tanta e sì inaudita, per avere dopo molte uccisioni particolari morto gran parte del popolo di Roma, e tutto quello d'Alessandria, che diventò odiosissimo a tutto il mondo, e cominciò ad essere temuto da quelli ancora che egli aveva intorno, in modo che fu ammazzato da un centurione in mezzo del suo esercito. Dove è da notare che queste simili morti, le quali seguitano per deliberazione di un animo deliberato e ostinato, non si possono da principio evitare, perché ciascuno che non si curi di morire, lo può fare, ma deve bene il principe temerne meno, perché le sono rarissime. Deve solo guardarsi di non fare ingiuria grave ad alcuno di coloro dei quali si serve, e che egli ha d'intorno al servizio del suo principato, come aveva fatto Antonino, il quale aveva morto contumeliosamente un fratello di quel centurione, e lui ogni giorno minacciava, e niente di meno lo teneva alla guardia del suo corpo, il che era partito temerario e da rovinarvi, come gli intervenne. Ma veniamo a Commodo, al quale era facilità grande tenere l'imperio per averlo ereditario, essendo figliuolo di Marco. E solo gli bastava seguire le vestigia del padre, e ai popoli e ai soldati avrebbe satisfatto. Ma essendo di animo crudele e bestiale, per poter usare la sua rapacità nei popoli, si volse ad intrattenere gli eserciti e fargli licenziosi. Dall'altra parte, non tenendo la sua dignità, descendendo spesso negli teatri a combattere con i gladiatori e facendo altre cose vilissime poco degne della maestà imperiale, diventò vile nel cospetto dei soldati, ed essendo odiato da una parte e dall'altra disprezzato, fu conspirato contro di lui e morto. Restaci a narrare le qualità di Massimino. Costui fu uomo bellicosissimo, ed essendo gli eserciti infastiditi dalle mollizie di Alessandro, del quale ho di sopra discorso, morto lui, lo elessero all'imperio, il quale non molto tempo possedette, perché due cose lo fecero odioso e disprezzato. L'una, esser lui vilissimo per aver guardate le pecore in traccia, la qual cosa era per tutti notissima, e gli faceva una grande indignazione nel cospetto di ciascuno. L'altra, perché avendo nell'ingresso del suo principato differito l'andare a Roma ed entrare nella possessione della sedia imperiale, aveva dato opinione di crudelissimo, avendo per gli suoi prefetti in Roma, et in qualunque luogo dello imperio esercitato molte crudeltà, a tal che commosso tutto el mondo dallo sdegno per la viltà del suo sangue e dallaltra parte dallodio per la paura della sua ferocia, prima laffrica di poi el senato con tutto el populo di Roma e tutta litalia li conspirò contro. Al che si aggiunse el suo proprio esercito, il quale campeggiando Aquileia e trovando difficultà nell'espugnazione, infastidito della crudeltà sua e per vedergli tanti nemici, temendolo meno lo ammazzò. Io non voglio ragionare né di Elio Gabalo, né di Macrino, né di Iuliano, i quali per essere al tutto vili si spensero subito, ma verrò la conclusione di questo discorso. E dico che li principi dei nostri tempi hanno meno questa difficoltà di satisfare straordinariamente i soldati nei governi loro, perché non ostante che si abbia ad avere a quelli qualche considerazione, pure si risolve presto, per non avere alcuno di questi principi eserciti insieme, che siano inveterati con li governi e amministrazioni delle province, come erano gli eserciti dell'imperio romano. E però se allora era necessario soddisfare soldati più che popoli, era perché i soldati potevano più che i popoli. Ora è più necessario a tutti i principi, eccetto che al turco e al soldano, soddisfare i popoli che i soldati, perché i popoli possono più che quelli. Di che io ne eccetto il turco, tenendo sempre quello intorno 12.000 fanti e 15.000 cavalli, da quali dipende la sicurezza e la fortezza del suo regno. Ed è necessario che posposto ogni altro rispetto dei popoli, se li mantenga amici. Simile è il regno del soldano, quale essendo tutto in mano dei soldati, conviene che ancora lui, senza rispetto dei popoli, se li mantenga amici. Ed avete a notare che questo stato del soldano è disforme da tutti gli altri principati, perché egli è simile al pontificato cristiano, il quale non si può chiamare né principato ereditario né principato nuovo, perché non i figlioli del principe morto rimangono eredi e signori, ma colui che è eletto a quel grado da coloro che ne hanno autorità. Ed essendo questo ordine anticato, non si può chiamare principato nuovo, perché in quello non sono alcune di quelle difficoltà che sono nei nuovi. Perché sebbene il principe è nuovo, gli oneri di quello stato sono vecchi e ordinati a riceverlo come se fosse loro signore ereditario. Ma tornando alla materia nostra, dico che qualunque considererà al soprattutto discorso, vedrà o l'odio o il dispregio essere stato causa della rovina di quegli imperatori prenominati, e conoscerà ancora donde nacque che parte di loro, procedendo in un modo e parte al contrario, in qualunque di quelli uno ebbe felice e gli altri infelice fine. Perché a Pertinace ed Alessandro, per essere principi nuovi, fu inutile e dannoso voler imitare Marco, che era nel principato ereditario, e similmente a Caracalla, Commodo e Massimino, essere stata cosa perniziosa imitar Severo, per non avere avuto tante virtù che bastasse a seguitare le vestigia sue. Pertanto un principe nuovo in un principato non può imitare le azioni di Marco, né ancora è necessario imitare quelle di Severo, ma deve pigliare di Severo quelle parti che per fondare il suo stato sono necessarie, e da Marco quelle che sono convenienti e gloriose a conservare uno stato, che sia di già stabilito e fermo. Fine del capitolo 19.